Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. In Italia sono sempre di più gli incidenti mortali causati dalla distrazione di autisti che parlano al cellulare o peggio scrivono messaggi o si scattano selfie mentre sono alla guida. Lo rivela un rapporto della Polizia di Stato pubblicato sulla rivista Polizia Moderna realizzato in collaborazione con Polizia Stradale basato sui dati rilevati da Polizia e Carabinieri. Gli incidenti stradali con conseguenze mortali purtroppo sono in aumento. Ricordiamo che in Italia ogni giorno muoiono circa 10 persone sulle nostre strade. Stress e distrazione stanno creando soprattutto nei tratti urbani un deficit d'attenzione negli automobilisti che risulta letale. Nei brevi percorsi inoltre non viene indossata la cintura di sicurezza soprattutto nei sedili posteriori dove i passeggeri rischiano in caso d'urto di essere catapultati fuori dall'auto e venire travolti da altri veicoli. Scusate il momento di buco, non avevo immaginato che finisse così presto questo servizio che fa il punto di una situazione però non attualissima, perché già oltre a quello che è stato detto c'era qualcosa, e questo qualcosa è il grido d'allarme che è stato lanciato proprio in questi giorni dall'ACI sul fatto che su 4 incidenti automobilistici 3 sono causati dal fatto che il guidatore in qualche maniera era disattento alla guida. Ma perché? Perché era più attento a osservare il proprio smartphone. Voi direte, ma cosa sarà mai, non è una cosa grave, lo facciamo tutti, è vero, a volte lo faccio anch'io, comincio subito con una presa di posizione onesta, non voglio fare assolutamente quello che se ne tira fuori. In una città come Roma sono state fatte 24.000 multe a persone che in 8 mesi, nei primi 8 mesi di quest'anno, sono state beccate dai vigili mentre telefonavano guidando l'automobile. Questi sono i dati presi da varie fonti, ma li riassume tutta Repubblica e da un paio di giorni sta trattando questo argomento. I numeri che ho fatto all'inizio non sono numeri peregrini, sempre nella pagina Repubblica è scritto che negli Stati Uniti nel 2015 18.000 persone sono morte perché stanno guidando e allo stesso tempo usando il loro cellulare. Ci sono dei sistemi, lo accenna proprio questo stesso articolo, che tecnologicamente potrebbe evitare questo, non so bene esattamente come funzioni, lo sapremo nel corso di questa trasmissione, un telefono che ha un dispositivo in più, un'app che impedisce di usarlo mentre sei in movimento. Potrebbe accadere, accade su Pokémon Go che tu non puoi prendere i Pokémon se vai in macchina, quindi basterebbe applicarlo a qualsiasi cellulare. Sì, ma creerebbe dei problemi, non potrei rispondere al telefono se vado in autobus, ad esempio se vado in treno. Quindi non è la tecnologia, è una campagna culturale. Cerchiamo di capire questa mattina, analizzando i dati, naturalmente per spaventarci un pochino di più, quanto in realtà per noi diventa indissolubile con la nostra sensazione di benessere o di equilibrio il dover capire a tempo reale chi ci scrive, cosa ci scrive e rispondere. Mi metto nelle condizioni di un qualsiasi persona che sta alla guida. Due sono gli atteggiamenti. L'uno è quello di parlare al telefono in maniera assolutamente indiscriminata. A Roma succede tutti i giorni. Le smart e le guidatrici di smart in particolare sono le più attive. Vedete, discrimini? No, non discrimini, è così, andate a Roma, girate. Non so per quale ragione uno ha una macchina che costa svariate decine di migliaia di euro, non può dotarla di un semplicissimo sistema Bluetooth di viva voce. Sarebbe semplicissimo, evidentemente c'è un rapporto viscerale con il telefono, di essere preso da quella telefonata, quella litigata col fidanzato, quella chiacchiera con l'amica, quella discussione di lavoro, devi farla proprio mentre stai guidando, perché improvvisamente sono diventati tutti dei gestori di importantissimi affari. Poi la seconda fase è quella più terribile, quella che ci dà 10 secondi di buio in cui noi potremmo andarci a schiantare ovunque. Sono i 10 secondi necessari per capire che ci segnala il telefono che qualcuno ci ha risposto al nostro messaggio, e probabilmente proprio in quelle poche righe su WhatsApp o su Messenger sta il senso dell'equilibrio della nostra giornata, è per noi più importante che la nostra vita. 800 24 00 24, quanto voi telefonate e messaggiate mentre guidate? Ma lo sapete che si rischia la vita? A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, questa mattina vorrei chiedere ai miei ascoltatori un atto di coraggio, un atto di coscienza. Cerchiamo di capire assieme perché non possiamo farne a meno. Perché prima di mettere ancora vigili per le strade, far fare ancora multe, fare segnalazioni, immaginare fantastici sistemi elettronici di contenzione, la nostra smania di verifica dello stato di esistenza nella percezione delle persone che ci sono amiche o semplicemente vivono nei nostri social network, è importante. Ho alcuni ascoltatori già pronti in linea. Lorenzo da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma io credo che la cosa più importante in ogni modo è come è successo quando ci hanno giustamente obbligato a usare le cinture di sicurezza. C'è stato in quel periodo un controllo da parte delle forze dell'ordine massiccio, non so se lei se lo ricorda. No, mi ricordo benissimo, ricorda, c'era anche la leggenda metropolitana delle magliette con le fili. Ci sono persone che avevano una resistenza bestiale, non le metterò mai, però, mi sento legato. Diciamo che però siamo arrivati a un buon livello. Sì, le cinture le mettono quasi tutti. Quello che invece manca qua del telefono, cioè io vedo non c'è nessun tipo di controllo, è una cosa assurda. Io No, il controllo c'è, diciamo, perché se dico che hanno fatto 24.000 contravvenzioni soltanto a Roma in 8 mesi, cioè che non possono... Non fanno più probabilmente, perché io guardi, vedo andando in giro, si vede subito, ci sono dei camion che vanno a destra e a sinistra senza nessun motivo. Questo significa che stanno facendo qualcosa d'altro, ma lasciamo perdere, questo può capitare anche agli automobilisti, non solo i camionisti, ma manca veramente, lei va in città, Roma, Milano, Bergamo, dove vuole, non c'è controllo. E se non c'è un qualcosa di coercitivo, purtroppo l'italiano... Lei ha ragione, le contravvenzioni ci sono, è già considerato un atto molto grave, però il motivo della riflessione va ancora oltre, non è un motivo tecnico. Come mai sembra che questo bisogno, che è un bisogno reale, cosciente, lo sento anch'io, mi arriva un messaggio da una persona a cui mi aspetto magari qualcosa o un appuntamento, o per me è importante capire in quel momento cosa mi vuol dire, cosa faccio, mi fermo, rallento? No, uno prende il telefono in mano, cerca di stare attento e dà un'occhiatina. Quell'occhiatina costa la vita, perché quell'occhiatina significa 10 secondi che noi è come se viaggiassimo bendati, e chiunque vorrei vedere se gli dicessi ti metti una benda, te ne vai per 10 secondi per strada guidando senza vedere quello che fai, tutti mi direbbero no, è impossibile. Eppure è così forte il bisogno indotto che ormai abbiamo di essere gratificati, perché non mi dite che siamo tutti dei grandi uomini d'affari, abbiamo degli impegni improrogabili e nelle mani nostre è il destino chissà di quanta gente. Il 2% l'umanità avrà veramente un bisogno radicale di vedere qual è il messaggio. Gli altri no, semplicemente hanno bisogno di capire in quel momento quanto ti calcola il mondo o quanto ti calcolano alcune persone in particolare, e quindi si rischia. Giovanni da Modena. Salve, io volevo ricollegarmi alla prima affermazione che ha fatto durante l'apertura della trasmissione, che occorrerebbe sicuramente un accordo tra automobilisti, eccetera, tra produttori di macchine e produttori di smartphone, in modo da far sì che si possano leggere, avere le letture vocali dei messaggi, in modo che uno possa distogliere lo sguardo. Che già esiste, in teoria già esiste. Ma ce ne sono, ma il governo dovrebbe obbligare tutte le case automobilistiche, dovrebbe obbligare anche gli smartphone, i produttori smartphone a fare questa benedetta. Ma già un vecchio telefono Nokia, che oggi la gente si vergognerebbe di tirare fuori, permetteva diciamo la trasmissione vocale dei messaggi. Figuriamoci oggi, qualsiasi smartphone può farlo. Non si fa. Oggi la maggior parte delle automobili possono avere disponibile un viva voce che si colleghi Bluetooth al telefono. Anche chi ce l'ha non lo usa. Questo vorrei capire come mai. Gilberto da Monza. Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Allora, io volevo ricordare a tutti che c'è una legge di diritto naturale scritta da un grande scienziato che fu Darwin, che purtroppo noi oggi facciamo finta di non ricordare più. La tecnologia ci aiuta tantissimo a risolvere tutti i nostri problemi quotidiani, ci aiuta nel fare una telefonata con la Bluetooth, ci aiuta a mandare un SMS, ci aiuta a fare una fotografia in tempo reale, però se noi questa tecnologia la usiamo male, cioè poiché non abbiamo un cervello troppo evoluto, non riusciamo a fare 300 cose insieme, fare una foto, telefonare e guidare allo stesso e osservare il traffico, il regolamento. Se non osserviamo queste regole, è normale, tra virgolette, che si muoia. E quindi si opera una cosa molto brutta, che ha un costo sociale altissimo, che si chiama selezione naturale. Vabbè, lei dice, guardi, sì, l'ho fatta parlare. È un po' semplicistica la sua lettura. Innanzitutto, qua non è questione di tecnologia abusata, è diverso l'approccio, è un nostro bisogno indotto negli ultimi anni di avere sempre sotto controllo il livello di gradimento che il mondo ha di noi. Il mondo per noi sono i contatti della rubrica del nostro smartphone. È importantissimo quando si accende la luce verde di WhatsApp o quella blu di Messenger o quella arancione di un altro sistema di comunicazione, che noi capiamo subito chi ci vuole, cosa deve dirci e come possiamo rispondere. È diverso, la tecnologia in sé non ha nessuna colpa, non è un abuso, è l'uso nel momento sbagliato, non è della tecnologia ma della nostra incapacità di controllare la nostra emotività. Non riusciamo a essere emotivamente padroni del fatto di dire, vabbè, guardo fra 5 minuti, devi farlo subito. Umberto a Treviso, Carlo La Spezia, vorrei sentire anche qualche donna però. Carlo. Pronto? Sì. Buongiorno. Lei non è d'accordo? Ma niente, su cosa? Io mi ricollego un attimino al discorso che è stato fatto all'inizio. Allora, secondo me sul discorso, cioè la comparazione con le cinture di sicurezza e col casco regge poco, perché sulle prime due cose l'Italia ancora oggi, secondo me, non dico che sia spaccata in due, ma quasi. Sul telefonino invece si è ramificata da tutte le parti. Comunque le posso dire, non la voglio interrompere, ma a supporto della sua riflessione, non è un problema italiano, questo è un problema mondiale. Negli Stati Uniti sul telefonino è mondiale. Sulle altre due cose no. Sì, le altre due cose no. Da una parte è la nostra rozza maniera di approcciarci al sistema della sicurezza. Il telefonino è un bisogno indotto nell'umanità. L'umanità da qualche anno ha una protesi emozionale in più che si chiama smartphone. L'uso e il rapporto con questa protesi ancora non è ben risolto, non è tecnologia. Potremmo mettere anche perché la tecnologia c'è. C'è già, ma figuriamoci, lei lo sa meglio di me, metti un'applicazione che ti mandi... Niente, stupidissima. Infatti, non si usa, è come il bisogno di tenerlo comunque in mano. Da tantissimi anni. E l'ho detto, io avevo un Nokia vecchissima generazione che permetteva di ascoltare qualsiasi SMS, ancora non esistevano qualsiasi SMS in maniera acustica, non è un problema. Ma ci sono oggi... Privacy, nel senso che la gente è attaccata morbosamente al proprio telefonino e quindi anche il solo fatto magari di vederlo collegato, diciamo, in viva voce o comunque con un Bluetooth a una macchina, non lo rende esclusivo alla persona. È chiaro, tu stai in macchina con la famiglia, ti arriva una telefonata molto personale, sentirla in viva voce con i bambini in macchina e dire dai dimmi che mi ami oppure perché non sei venuto l'appuntamento, è imbarazzante. Ma molte volte sono persone sole, potrebbero fare quello che vogliono. Fermiamoci solo un secondo. Luigi Di Matteo, buongiorno. Buongiorno. Luigi Matteo è dell'area tecnica ACI, è diciamo l'azienda che in questi giorni ha dato l'idea, ha fatto un'analisi molto approfondita di quelle sono le cause di incidente. Una delle prime ragioni è la distrazione, nella distrazione ci sta pure il fatto che la gente usi il telefono. È possibile estrapolare dalla vostra indagine capillare quella che sembra un titolo di un giornale, 3 su 4 hanno un incidente perché usano il telefono, è proprio così o il dato è un pochino più da raccontare meglio? Allora, il dato è da approfondire sicuramente. 3 su 4 sì, è un'indicazione più o meno giusta, però va meglio analizzata, nel senso che comunque la distrazione viene rilevata come circa il 23% tra le cause di incidenti, quelle ufficiali rilevate dagli organi di polizia. È chiaro che poi la distrazione diventa una concausa su tutta un'altra serie di infrazioni. Se sono distratto, uno può essere distratto e non osservare le regole di circolazione. Non le regole di circolazione normali, come non fermarmi a uno stop, non fermarmi a andare, non dare la precedenza quando devo dare precedenza. Insomma, la distrazione può entrare in tutta un'altra serie di circostanze e di incidentalità. Però voi che maneggiate i dati da tanti anni, avete visto una curva di differenza da quando comincia a essere lo smartphone un accessorio individuale indispensabile, come uscire senza mettersi la giacca o senza mettersi la camicia o cose del genere? Nessuno esce più senza smartphone, nessuno rinuncia alla propria vita relazionale nemmeno in quel momento. È cambiato qualcosa? Qualcosa è cambiato. Tenga conto che negli anni precedenti la distrazione incideva per circa circa il 18% come causa singola, e oggi siamo al 22,50. Gli ultimi dati disponibili ci danno questa cifra. Quindi siamo più distratti come causa isolata. Poi ovviamente nelle concause la cosa ovviamente è proporzionale. Fermiamoci solo un secondo. Denise da Como, chiamato donna, e una donna ha risposto. Denise. Sì, buongiorno. No, mi interessa. Buongiorno, Gianluca, l'ascolto sempre. Non mi creda, Denise, che il mio è un atteggiamento discriminatorio. Però è vero, le signore romane stanno sempre col telefono attaccato all'orecchio, sempre, non so perché. Io adesso mi sono fermata in un parcheggio e ho fermato la macchina, sono scesa, per cui adesso sto aspettando un'amica, ma rigorosamente ho fermato la macchina, per cui non sto parlando guidando. Mi dia qualche elemento in più, mi dia qualche elemento più per capire. Io lo so di me. Grazie, mi arriva in quel momento un messaggio. Ho il cardiopalma. Volevo ricordare una cosa, poi aggiungo quello che penso. Il film di Muccino, Sette Anime, che parla proprio di questa cosa. Sì. Nel film, insomma, l'incidente è proprio provocato da questa distrazione al telefonino. Dicevo, io sono donna e pensavo che forse noi donne siamo veramente vittime di una curiosità scimmiesca, cioè proprio siamo curiose come scimmie. È una cosa più forte di noi, non lo so, perché a me è capitato, cioè non è una cosa abituale che faccio, di guardare il telefono, di rispondere ai messaggi, assolutamente no, ma di guardare il telefono, magari è arrivato il bip bip del messaggio che è arrivato, e allora l'occhiata fugace con la cosa dell'occhio guido e l'occhiata fugace sul telefono c'è. Allora, però vogliamo essere, Denise, vogliamo essere sinceri fino in fondo. Si distrae per il messaggio che arriva chi aspetta messaggi. In una situazione tranquilla, in cui sei tranquillo, il mondo lo vedi con serenità, non c'è niente di particolare, ti arriva il messaggio, ma lo vedo dopo. Chi comunque ha in piedi alcuni contatti particolarmente critici, ma non voglio entrare nella sfera soltanto dei sentimenti, aspetta una risposta dal lavoro, aspetta una chiamata importante per un referto medico, oppure aspetta che una persona a cui tiene in quel momento si faccia viva. Ecco, allora in più è la nostra vita personale, la nostra vita relazionale che sopraffà quello che è il nostro senso di conservazione. Abbassiamo il livello di guardia, perché per noi è più importante sentirci bene con le persone con cui ci relazioniamo piuttosto che rischiare la vita in quel momento. Forse anche è un gesto estremo di attenzione verso il mondo. Ci fermiamo però un istante, riprendiamo fra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog. Quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando del fatidico istante che può compromettere la nostra vita e la vita degli altri, quello in cui noi siamo distratti alla guida perché dobbiamo controllare, verificare, rispondere o mandare un messaggio via smartphone. Guardate, lo riflettevo mentre andavano le interruzioni pubblicitarie. Avete notato, chi mi ascolta all'inizio di questa trasmissione, c'è stato un buco, era finito il servizio e poi un attimo non sentito nulla. E di chi è la colpa? La colpa è mia. In quel momento c'avevo lo smartphone in mano, non avevo sentito che stava finendo il servizio perché stavo rispondendo a intonti, poi che mandava la scheda sugli incidenti, capito? Però quel vuoto che avete sentito, che voi avete avuto l'impressione la radio si è rotta, si è interrotto qualcosa, è finito il mondo, si è schiantato Nicoletti, corrisponde a esattamente il tempo in cui io potrei andarmi a schiantare contro un muro, contro una persona, sbagliare strada, non passare un semaforo. È difficile fare la morale agli altri quando tutti ci siamo dentro. Tutti lo facciamo. Al semaforo non vediamo l'ora di arrivare al semaforo perché possiamo controllare il telefono, e molte volte il semaforo poi diventa verde, qualcuno ci suona dietro, ma noi non abbiamo finito ancora di comporre il nostro messaggio e creiamo un rallentamento. Quando ci suona l'allarme che sta arrivando qualcosa e ci segnala che il telefono è pronto per darci la gratificazione o la soddisfazione o l'angoscia di come sta andando un nostro rapporto, un affare che abbiamo in piedi o qualunque cosa che ci venga dal resto del mondo, non possiamo resistere. È per noi più forte la tentazione di avere soddisfazione emotiva in quel momento che un banale sistema di prevenzione che potrebbe salvarci la vita. Questo è il punto. Umberto da Treviso. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Devo darle ragione su tutto, perché faccio per lavoro circa 50.000 chilometri l'anno. Il telefono per me è uno strumento di lavoro, perché non ricevo i messaggi, mettevo le mail. La tipologia di lavoro che faccio è... Lei ha un ufficio ambulante quando si muove? Ufficio, okay. Esatto, quando mi muovo ho il mio ufficio ambulante. Ma è logico, lo capisco bene. Quello che lei sta dicendo, purtroppo lo provo tutti i giorni, ne sono cosciente, credo di avere proprio una fobia nel non poter rispondere. E fin dai tempi, diciamo, dei mitici Nokia, come diceva lei, mi sono dotato del viva voce piuttosto che dell'auricolare per evitare le multe. Non si pensa alla morte, si pensa alla multa, ai 6 punti di patente e tutto quello che ne viene dietro. Sì, mi permetta, siamo tutti convinti che tutto sommato potremmo anche tenerlo quel telefono in mano invece che sentire viva voce, però lo facciamo per senso civico, per paura delle multe, però dentro di noi siamo convinti di essere padroni comunque della guida con un telefono in mano, per questo sì, insistiamo. Sì. Io ho trovato un sistema per non scrivere le mail e per non rispondere ai messaggini. E qual è? Spegni? No, non spegnalo, perché non posso spegnerlo assolutamente. Ho applicato uno di quei porta telefoni, porta smartphone, sì, in un punto del parabrezza abbastanza lontano che mi dà la sensazione di essere troppo lontano per poter digitare, e quindi mi limito in questi momenti semplicemente a rispondere con il viva voce. Però la tentazione, sono d'accordo con lei, è fortissima, anche quando non lavori, perché poi diventa un'abitudine che ti porti anche in ferie. Allora diciamo che ci siamo creati, nel bene o nel male, una nuova dipendenza. È come il fumatore accanito, è inutile che gli metti sul pacchetto le sigarette, le budella putrefatte, i polmoni infradiciati, tanto continua a fumare. Sì, lo so, e però sai, non ne posso fare a meno. Siamo consapevoli che non stiamo parlando di senso civico, non stiamo parlando di buona educazione, non stiamo parlando di sventatezza. Stiamo allucinando il fatto che abbiamo una nuova dipendenza, che non ne possiamo fare a meno. Su questo forse secondo me vale la pena di riflettere. Franco, provincia di Milano. Ah, buongiorno. Dunque, io già il 13 di agosto sulla Seriati Bergamo, io guido il camion per la San Carlo, senza far pubblicità. Alle 10 del mattino, tranquillamente stavo percorrendo l'autostrada, una macchina ha attraversato le tre corsie e mi ha centrato in pieno. A 100 all'ora mi ha buttato dentro in un canale, fortuna vuole, che ne sono venuto fuori vivo. E la ragione? La ragione per questo straniero, no? Indipendentemente dalle origini, sì. No? Praticamente dovrebbe essere stato al telefono oppure avere qualche birra in più. Vabbè, se era ubriaco una cosa, se invece l'autostrada in corsa, un episodio luttuoso, ho letto sul giornale oggi, una ragazza è morta perché a 130 all'ora sull'autostrada faceva un film col telefono, il film è stato, diciamo, il documentario del suo morire, e mi rendo conto è un'altra cosa, non confondiamo i temi, sennò facciamo confusione. Luigi, buongiorno, Campobasso. Buongiorno. Senta, io volevo portare sia la mia esperienza a Roma da automobilista, perché io ho preso sia una multa, lei prima citava il dato di Roma che è abbastanza inquietante sulle multe, e ho fatto un tamponamento proprio perché avevo il cellulare in mano, fortunatamente senza conseguenze perché era a bassa velocità. Però da un punto di vista sociologico mi viene in mente, dottore, che poi ci sia anche un elemento compagnia nel traffico. Voglio dire, ad esempio, se uno immagina il traffico urbano di Roma, Milano... Sì, ore e ore di fila, dice, almeno faccio qualcosa. Diventa anche, perché molto spesso uno vuole tentare di giustificare il lavoro... L'ho detto all'inizio, Io penso che il 2% delle persone che hanno un telefono in mano hanno degli impegni lavoro, ma figuriamoci. Io credo che sia soprattutto un elemento di compagnia. Compagnia è anche, come diceva lei, ormai è un vizio. Ma vizio è già un termine negativo. Io dico, abbiamo una dipendenza, dobbiamo renderci conto che in questo momento siamo dipendenti dello stato delle nostre relazioni. Le nostre relazioni a spettro amplissimo, capito? Siamo dipendenti anche semplicemente di capire se mettono un like sulla nostra foto. Non ci cambia la vita, ma mettiamo la nostra foto, dobbiamo capire, ci è arrivato un like, chi ce l'ha mandato, perché ce l'ha mandato. Entrano dei meccanismi, che sono dei meccanismi che ci aiutano anche a vivere meglio. La complessità della relazione nell'epoca digitale è senz'altro un conforto. Però siamo arrivati a un punto che, perlomeno quando si guida, questa forma di conforto, ci rendiamo conto che per noi è veramente molto pericolosa. Altro che mettere le foto zozze in rete e poi dispiacersene, è molto più pericoloso usare materialmente un telefono. Marco, da Frosinone. Pronto? Sì, l'ascolto. Sì, buongiorno a tutti. Nicoletti, lei ha messo il dito nella piaga. Dobbiamo prendere coscienza che siamo dipendenti, abbiamo sviluppato una dipendenza e sostanzialmente anche una immaturità emotiva, emozionale, perdendo il nostro autocontrollo. Non sappiamo più gestirci nelle situazioni che ci capitano, in questo caso con lo smartphone e nel caso di specie ancora di più in termini ancora più pericolosi, perché si mette a rischio la propria e l'altrui vita. Tutto questo io bisogna secondo me dirlo, prenderne coscienza. La mia esperienza sul punto è questa, suggerimento banalissimo: come in tutti i casi di dipendenza, l'unico modo secondo me molto più, come dire, facile da attuare è troncare, tentare di prendere le distanze da quell'elemento che ti crea la dipendenza. E io lo sto cercando di farcela da qualche mese a questa parte, sto accantonando questo oggetto e lo lascio lì e sto recuperando, devo dire, la mia vita. È un po' come quando uno banna sui social le persone con cui non vuol più avere rapporti, litiga. Sì, è vero. Così eviti l'angoscia di dover controllare comunque le persone. Perché non ti cambia la vita. Io credo che il 95% peraltro di tutto quello che noi fruiamo, di cui noi fruiamo dal web o dai social eccetera, sia, non dico spazzatura, non voglio offendere, ma totalmente inutile. In realtà non mi cambia la vita, non me la migliora. Noi secondo me dobbiamo campare per migliorarci la vita, per crescere, elevarci, per maturare. E tutto questo a me ho capito che manco succedeva, o manco succede con i social. E allora perché devo dedicare la mia vita a questo oggetto? Sono meno drastico di lei. Dico, se questo piace, è qualcosa gratifica, lo si faccia. Ci si renda conto che non si può più mettersi al volante con un telefono acceso, con un telefono perlomeno con uno smartphone acceso. La soluzione del nostro ascoltatore sembra drastica, ma è quella che al momento sembra quella di maggiore attuazione. È inutile pensare dei software che già esistono, delle applicazioni che già esistono per regolare e controllare. No, tu quando ti siedi dovresti spegnere lo smartphone o perlomeno lasciare soltanto accesa la telefonia collegata col Bluetooth al viva voce o con l'auricolare. Il resto non ci devi pensare, devi fare il grande sforzo di dire il mondo, per il tempo che io guido, può anche fare a meno di me o io posso fare a meno degli altri. Forse questa è la soluzione. Fermi un istante, poi sentiamo in realtà tecnicamente dal nostro amico Delaci cosa si pensa che si possa fare, visto che il problema è tangibile e registrabile. Tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024. In questa analisi siamo arrivati a una conclusione. Al momento il sistema migliore per non rischiare è porre a se stessi un limite, dire: quando guido evito di immaginare che qualcuno possa aver bisogno di me o io possa avere bisogno di verificare qual è lo stato di gradimento del mondo nei miei confronti. Quindi spengo tutto quello che sono i contatti con i social, con le messaggerie e con altro che la telefonia vocale. Quella me la sento tramite il Bluetooth o tramite l'auricolare, così almeno sto tranquillo. Luigi Di Matteo, ricordo che è dell'area tecnica ACI. In realtà questa dovrebbe essere una sorta di training che ognuno di noi dovrebbe fare, ma quando si è proprio a livello della scimmia sulla spalla e non si riesce a rinunciare, cosa c'è di tecnico che potrebbe risolvere il problema o perlomeno aiutare a risolverlo? La tecnologia c'è tutta. Ci sono dispositivi che leggono i messaggi del telefonino, li leggono in audio ovviamente sono una grande soluzione, perché il viva voce sì è importante per le chiamate vocali, ma il problema grande è quello del texting, di scrivere messaggi, di leggere i social. Se ci sono dispositivi già esistenti anche su, diciamo, su modelli di macchine non di prima classe, noi però pensiamo, insomma, che il problema sia essenzialmente, come diceva lei, comportamentale. È che ormai la gamma delle sensazioni ci vengono dal telefono, non è soltanto ciò che noi possiamo tradurre in voce. Vedere le foto, vogliamo vedere le foto, vogliamo vedere le immagini, vogliamo vedere che succede, e quello non c'è sistema che può traducerlo in modo vocale. Quello è il problema. Sì. Il problema è che vogliamo comunque vedere lo schermo. E la soluzione la stanno pensando negli Stati Uniti, la guida autonoma. La macchina guida autonoma in realtà poi ci consentirebbe praticamente di passare tutta la parte del nostro viaggio allo smartphone. Quindi concorda che abbiamo identificato il fatto che abbiamo una dipendenza talmente forte che dobbiamo trovare una tecnologia che ci metta fuori uso nel dominio del nostro autoveicolo, perché non potremmo farne a meno, siamo come ormai... Che renda la guida un'operazione secondaria rispetto a quella primaria di navigare su internet e di vedere i social. Beh, questo è interessante come analisi proprio analisi antropologica di uno stato, sì, velocissimo della nostra evoluzione. Me lo dica un tecno dell'ACI, mi fa piacere, ma mi fa riflettere sugli indicatori di come stia cambiando l'umanità. Stiamo immaginando automobili che vanno a guida autonoma, non perché tutto sommato siamo stanchi di guidare, no, perché siamo ormai esseri così relazionalmente complessi che la nostra complessità ci potrebbe essere distratti, quindi non siamo più affidabili per guidare l'automobile, dobbiamo stare attenti. Sentiamo Nicola da Vicenza. Nicola. Pronto? Buongiorno, sono Nicola da Vicenza. Ecco, io sono Nicola da Vicenza. Con lei volevo parlare. No, stavo dicendo, secondo me siamo tutti talmente stressati dal guidare, da passare talmente tante ore, sempre da soli nell'auto, che alla fine il telefono diventa una compagnia, quindi ci guardiamo i messaggi. Sì, ma cinque anni fa, sei anni fa, sette, che i social eravamo ugualmente soli, ugualmente eravamo stressati e ugualmente sopravvivevamo. È che abbiamo una cosa in più. È come metropolitana nel treno, una volta uno leggeva il giornale o qualcosa, adesso quando si prende la metropolitana non c'è nessuno... quanti col telefono in mano che guardano qualcosa, quindi è proprio un'evoluzione che ci ha preso. Io penso che veramente l'unica soluzione sia quella della guida automatica o di spegnere i cellulari, perché altrimenti non ne verremo fuori, non siamo in grado di controllarci. Diciamo che le strade sono due, allo stato dell'opera è inutile che mi sta arrivando a gente, trasmissione diseducativa, io non ci sto, sì, sono parti residuali dell'umanità. L'umanità ormai si è evoluta in questa direzione e non si torna più indietro, è cambiato. No. Non riusciremo più noi a sopravvivere nelle case dei nostri nonni, ma nemmeno una settimana d'inverno, questo se ne rende conto. Avremo freddo, avremo gli spifferi, avremo mille disagi, l'acqua fredda, non saremo più capaci, perché ci siamo evoluti, siamo abituati ad avere una vita più comoda. Riguardo ai bisogni fisici, riguardo ai bisogni mentali, emotivi, ci siamo evoluti, non siamo più capaci di avere una vita non attraversata dalla realtà aumentata dei contatti con cui noi vogliamo comunque avere un report quotidiano, anzi minuto per minuto, di quello che accade. È molto complesso, ma anche molto affascinante. Pierpaolo da Roma. Pierpaolo. Pronto, buongiorno. Sì. Allora, guardi, io sono rimasto molto colpito da quello che si sta raccontando in questa trasmissione, perché è un problema che mi ha toccato da vicino. Io vivo a Roma, lavoro con lo smartphone, perché per me ricevere o non ricevere un messaggio significa anche guadagnare delle cifre. Lo capisco. E di conseguenza ho sfiorato per almeno due o tre volte dei brutti incidenti a causa di questo talento. Allora, io ho risolto in questa maniera e spero che sia utile anche agli altri ascoltatori. Visto che si ha uno smartphone, sicuramente si avrà l'accesso a un o auricolare o addirittura in macchina. Io ho una macchina con un Bluetooth incorporato, ormai è un'utilitaria. Ma sì, ce l'hanno quasi tutte le macchine. Poi basta avere un TomTom, qualunque cosa. Perfetto, dato che se si ha il telefono nell'abitacolo, visto che c'è una vera e propria dipendenza, come dicevano anche gli altri ascoltatori, la tentazione di andarlo a beccare, ovunque esso sia, anche in una parte lontana del parabrezza, c'è. Allora io ho una borsa di lavoro, mi impongo di chiudere lo smartphone nella borsa di lavoro, nel portabagagli, visto che anche se sta nel portabagagli è collegato al Bluetooth, io rispondo alle telefonate e basta, quindi sono collegato. Per tutto il resto mi sono imposto di aspettare quando mi fermo con la macchina, perché guardate, veramente è pericolosissimo. È pericolosissimo. E avere questo oggetto dentro la macchina, comunque sia, anche nel traffico. Io ho fatto... Allora, fai, vai, è perfettamente chiaro. Faccio un'altra proposta e poi chiudiamo e vediamo se poi il collega, l'amico dell'ACI, riesce a farla sua o riesce a articolarla meglio in una successiva trasmissione che faremo, perché il tema mi interessa. Ci vorrebbe una regola, un regolamento, che uno entra in auto e deve infilare il proprio cellulare in un alloggiamento. Lì deve rimanere lì, guai se lo togli, se lo sfila un attimo viene segnalato con un SMS, vigile e via dicendo. Infilato l'alloggiamento, l'alloggiamento cellulare trasmette soltanto la voce, le telefonate o la trasduzione vocale dei messaggi scritti. Fine. Se lo sfili fuori mentre guidi, parte un SMS e si avverte in quel momento qualcosa di grave come staccare le cinture di sicurezza mentre guidi. Questa potrebbe essere un'idea, ma è sempre un palliativo. Ormai non rinunciamo alla nostra vita emotiva così complessa. Quindi ha ragione il signore dell'ACI, Luigi Di Matteo, bisognerà trovare delle automobili che camminano da sole, perché noi umani sventati non abbiamo più il senso di responsabilità di guidare un'automobile. A tra poco, a domani.